Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie principali della giornata: auto contro i pedoni a Times Square nel pieno centro di New York, un morto e una ventina di feriti, di cui alcuni gravi. Per la polizia non si tratta di un atto terroristico ma di un incidente. L'uomo era un ex membro delle forze armate americane. Ancora rivelazioni sul presidente americano. Penso che Putin paghi Trump, diceva nel giugno 2016 in piena campagna elettorale il leader della maggioranza repubblicana alla Camera, Kevin McCarthy, secondo quanto riporta il Washington Post. Uno scherzo, una battuta di cattivo gusto che nessuno pensa sia vera, chiarisce poi lo stesso McCarthy. Firmato oggi in prefettura a Milano il protocollo per la distribuzione di migranti nei comuni milanesi, un modello, lo ha definito il ministro Minniti, per l'Italia e per l'Europa. Crollano le assunzioni a tempo indeterminato e aumentano i nuovi contratti a termine. L'INPS fotografa l'andamento del mercato del lavoro nel primo trimestre, nel quale risulta una forte frenata della crescita dei nuovi posti fissi. Restano estremamente gravi le condizioni di Nicky Hayden, il pilota americano di Superbike ricoverato a Cesena. Ha riportato un gravissimo danno cerebrale, dicono i medici. Ieri era stato investito da un'auto mentre era in bicicletta nel Riminese. La morte di Chris Cornell, voce degli Audioslave e dei Soundgarden. Il rocker aveva 52 anni ed è stato trovato morto in un hotel di Detroit. Per il medico legale si è trattato di suicidio. Ed è morto ad 84 anni Daniele Piombi, popolare presentatore televisivo legato a trasmissioni storiche come il Cantagiro e il Festival Bar. Queste dunque le notizie principali che ora ripercorriamo insieme. Un saluto da Maria Piera Ceci, vi ricordo i consueti effetto notte, @radio24.it, la nostra pagina Facebook e il nostro numero di WhatsApp 349-238-6666 per i vostri messaggi. Ripartiamo dunque dall'America. Non si è trattato di terrorismo ma di un incidente, la polizia americana ne è sicura. Un'auto, lo ricordiamo, è piombata sulla folla che camminava su un marciapiede di New York in Times Square, la piazza forse più famosa della città. So far what we know, 23 individuals were injured in this incident. Quello che state sentendo è il sindaco di New York, Bill de Blasio. Una persona è morta e feriti sono 23, di cui 4 gravi, sta riferendo. Arrestato l'uomo alla guida dell'auto, che è un ex membro delle forze armate americane. Anche se è escluso che si tratti di un atto terroristico, le autorità hanno comunque rafforzato i controlli nei luoghi strategici. Restiamo negli Stati Uniti per raccontarvi ora quanto sta accadendo dentro e fuori la Casa Bianca. La bufera quotidiana su Donald Trump e i suoi rapporti con la Russia scoppia ancora a partire dalle pagine del Washington Post, che 2 giorni fa aveva scritto delle presunte rivelazioni di segreti al ministro Lavrov in visita a Washington. Oggi il quotidiano pubblica la trascrizione di una conversazione di un anno fa tra il leader della maggioranza repubblicana alla Camera, McCarthy, con altri parlamentari. Credo, disse, che Putin paghi 2 persone, Dana Rohrabacher e Trump. La prima è una deputata repubblicana della California, il secondo è ovviamente l'attuale presidente, che però allora non aveva ancora nemmeno la nomina del partito per correre per la Casa Bianca. No one believes it to be true. Scherzavo, si difende oggi McCarthy. È stata una battuta di cattivo gusto, nessuno pensa sia vera. Intanto altri funzionari statunitensi hanno raccontato all'agenzia di stampa Reuters di contatti tra l'ex consigliere per la sicurezza nazionale Flynn ed esponenti russi, mentre Trump tenta di ribellarsi all'accerchiamento. È una caccia alle streghe, dice. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il Supremo Tribunale Federale del Brasile ha aperto un'inchiesta per presunta ostruzione della giustizia contro il presidente Temer. Borsa in caduta libera in Brasile sulla scia dello scandalo di Tangenti che mette sotto accusa il presidente. La crisi è ora alle nostre spalle, lo ha detto il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi a Tel Aviv. La ripresa dell'Eurozona è solida e sempre più ampia fra i paesi e settori economici. Finiti gli sgravi contributivi, crollano i nuovi contratti a tempo indeterminato. La tendenza emersa già lo scorso anno è confermata dai dati diffusi dall'osservatorio INPS sul precariato relativi ai primi 3 mesi dell'anno. In questo inizio 2017 ci sono state più assunzioni che licenziamenti in Italia, tuttavia i contratti a tempo indeterminato hanno subito una brusca frenata rispetto allo stesso periodo del 2016. Lo rivela l'INPS nell'osservatorio sul precariato, i cui dati parlano dell'attivazione di quasi 400.000 contratti stabili, comprese le trasformazioni, nei primi tre mesi di quest'anno, in calo del 7,4% sullo stesso periodo del 2016. Il saldo tra assunzioni stabili e cessazioni resta attivo per oltre 17.000 unità, un numero questo di molto in calo rispetto al saldo di quasi 42.000 unità dell'anno precedente e del boom delle quasi 215.000 nei primi tre mesi 2015, quando erano previsti sgravi contributivi totali. Quanto alla disoccupazione, nei primi tre mesi dell'anno sono arrivate oltre 381.000 richieste di indennità, il 7% in più rispetto allo stesso periodo 2016. Crollano invece le richieste di cassa integrazione, in aumento infine i licenziamenti del 2,6% rispetto ai primi tre mesi 2016, ma se si guarda a quelli disciplinari l'aumento è di molto maggiore, 14,6%. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Approderà domani in Consiglio dei Ministri per il via libera finale la riforma del pubblico impiego disegnata dalla ministra Marianna Madia. Gli ultimi ritocchi ai testi allargano le maglie per la stabilizzazione dei precari, dettagliano l'iter che porta al licenziamento e inseriscono una fase ponte fino a settembre per il cambio delle regole sulle visite fiscali. I controlli infatti passeranno dalle ASL all'INPS con la creazione di un polo unico della medicina fiscale comune a pubblico e privato. E siamo al dibattito sulla legge elettorale. L'ex segretario del PD, ora fuoriuscito, Pierluigi Bersani, stronca il Rosatellum, la proposta di legge elettorale metà proporzionale e metà maggioritaria arrivata ieri dal PD. A me va bene tutto, ma non andiamo dagli italiani a spiegargli una cosa pasticciata e complicatissima, che non porta poi a risultati. Questa proposta non assomiglia né al Mattarellum né al tedesco. Non garantisce governabilità, riduce la rappresentanza, riduce la parola coalizione a una spartizione di candidature, punto e basta. Contrario anche il Movimento 5 Stelle, il Rosatellum è una truffa, inganna gli elettori, dice il capogruppo Roberto Fico. Intanto, notizia di poco fa, lo hanno stabilito nella conferenza dei capigruppo della Camera, slitta dal 29 maggio al 5 giugno l'approdo in aula proprio della legge elettorale. Migranti, il ministro dell'interno Minniti oggi a Milano per la firma del protocollo sull'accoglienza cosiddetta diffusa nei comuni dell'area metropolitana di Milano. Un modello da presentare all'Europa, ha detto. Sono 76 su 134 i sindaci del milanese che hanno aderito al protocollo che coinvolge i comuni nell'ospitalità dei richiedenti asilo e che prevede che i sindaci reperiscano autonomamente nei territori di propria competenza le unità abitative da destinare ai migranti assegnati. La prefettura in cambio si impegna a non inviare ulteriori persone una volta raggiunto il tetto concordato per ogni comune aderente. Alla firma era presente anche il ministro dell'interno Marco Minniti. Noi oggi presentiamo all'Italia e all'Europa il modello Milano, il modello che tiene insieme il principio dell'accoglienza e dell'integrazione e il principio della sicurezza. Davanti alla prefettura però c'erano anche i tanti sindaci, molti di Lega Nord e Forza Italia, che hanno deciso di non aderire all'iniziativa, come spiega Graziano Musella, sindaco di Assago. Non abbiamo la disponibilità sul territorio, saremo costretti ad intervenire nei confronti di forzature che andrebbero a peggiorare la situazione dei nostri cittadini. A loro però il ministro ha teso una mano, annunciando che, per chi volesse aderire, il tavolo per la firma del protocollo rimarrà permanentemente aperto. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Non migliorano purtroppo le condizioni del pilota statunitense di MotoGP e Superbike, vittima ieri di un incidente. Condizioni gravissime, le parole del bollettino medico sono quelle che non avremmo voluto leggere. Riferiscono di un grave politrauma con conseguente gravissimo danno cerebrale per Nicky Hayden, 35 anni, investito da un'auto mentre pedalava in bici sulla Riccione Tavoleto. E i messaggi di sostegno su internet si moltiplicano di ora in ora. Nicky è uno dei migliori amici che ho avuto nel paddock. Forza, siamo tutti con te, scrive su Facebook un commosso Valentino Rossi. Da Twitter l'incoraggiamento della sorella, che definisce Nicky un combattente. Da Le Mans, dalla conferenza stampa della MotoGP prima del Gran Premio di Francia, l'abbraccio virtuale degli ex colleghi di gara. Ti pensiamo Nicky 69, la scritta in inglese, nello striscione esposto da tutti i piloti. Annalita Lambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un pullman ha preso fuoco sull'autostrada Torino-Milano nel Milanese. A bordo 20 bambini di quinta elementare, 3 maestre, per fortuna tutti illesi. Il conducente si è infatti accorto del fumo che usciva da uno pneumatico e ha fatto scendere tutti i passeggeri alla prima area di servizio incontrata. Il sospetto è che il problema sia partito dai freni. Il crollo del ponte sulla A14, indagati anche dirigenti e funzionari di autostrade. Disastro colposo, cooperazione in omicidio colposo, lesioni colpose, violazione delle norme sulla sicurezza, queste le accuse a vario titolo nei confronti dei 41 indagati, tra cui anche 6 tra dirigenti e funzionari di Autostrade per l'Italia. Parliamo del crollo del ponte 167 sulla A14 all'altezza di Camerano in provincia di Ancona, avvenuto il 9 marzo, e che costò la vita ai coniugi Emidio Diomede e Antonella Viviani, il penultimo di una serie di ponti e viadotti ceduti in Italia negli ultimi anni. Su quel tratto autostradale erano in corso lavori per la realizzazione della terza corsia e ai fini di quell'ampliamento era previsto il sollevamento del cavalcavia, ma qualcosa non andò per il verso giusto e la struttura improvvisamente si schiantò a terra. È inconcepibile eseguire lavori di questa natura senza chiudere la 14, aveva raccontato allora il sindaco di Castelfidardo, località a poca distanza dal luogo. I due coniugi stavano infatti transitando con la loro auto nel momento in cui il ponte rialzato venne giù. In ospedale finirono anche 3 operai caduti da 7 metri d'altezza. Oggi sul luogo dell'incidente sono arrivati consulenti per un sopralluogo disposto dal PM di Ancona Irene Bilotta, un atto considerato irripetibile. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. La Commissione europea ha multato Facebook per 110 milioni. Secondo la Commissione europea avrebbe fornito informazioni ingannevoli su account al momento dell'acquisto di WhatsApp. Abbiamo lavorato su questo caso a lungo, ma non sappiamo i tempi della decisione. Così sulla vicenda Facebook-WhatsApp soltanto ieri si era pronunciata la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager e da Bruxelles proprio oggi è arrivata la decisione. L'antitrust europeo infligge una maxi multa da 110 milioni di euro a Facebook per aver fornito informazioni fuorvianti nel momento dell'acquisto di WhatsApp. Nel 2014 Facebook aveva assicurato alla Commissione europea di non poter fare collegamenti tra gli account Facebook con quelli di WhatsApp, cosa invece realizzata nel 2016. La società di Zuckerberg però ha ammesso poi di aver commesso l'infrazione collaborando con la commissione e quindi quest'ultima ha deciso di ridurre la multa a 110 milioni dai quasi 250 potenziali, perché avrebbe dovuto essere pari all'1% del fatturato 2016 del gigante social. Ma l'ok che la commissione europea diede alla fusione tra Facebook e WhatsApp resta valido. La fine sulla vicenda, secondo un portavoce di Facebook che ribadisce: abbiamo agito in buona fede, gli errori non sono stati intenzionali. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. È morto Daniele Piombi, storico conduttore di tante trasmissioni Rai a partire dal Cantagiro. Daniele Piombi aveva 84 anni. E Chris Cornell si è suicidato, lo ha comunicato il medico legale. Il rocker è stato trovato morto nella notte in una camera d'albergo di Detroit dopo un concerto. Chris Cornell, voce del Soundgarden e degli Audioslave, aveva 52 anni. Ci fermiamo per qualche minuto, poi torniamo insieme. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Auto contro i pedoni a Times Square nel pieno centro di New York, un morto e una ventina di feriti, di cui alcuni gravi. Per la polizia non si tratta di un atto terroristico, ma di un incidente. L'uomo era un ex membro delle forze armate americane. Ancora rivelazioni sul presidente americano. Penso che Putin paghi Trump, diceva nel giugno 2016, in piena campagna elettorale, il leader della maggioranza repubblicana alla Camera, Kevin McCarthy, secondo quanto riporta il Washington Post. Uno scherzo, una battuta di cattivo gusto che nessuno pensa sia vera, chiarisce poi lo stesso McCarthy. L'antitrust europeo ha inflitto una multa da 110 milioni di euro a Facebook per aver fornito informazioni fuorvianti nel momento dell'acquisto di WhatsApp. Si tratta di un chiaro segnale alle società che devono rispettare le regole europee, ha dichiarato la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager. Crollano le assunzioni a tempo indeterminato, aumentano i nuovi contratti a termine. L'INPS fotografa l'andamento del mercato del lavoro nel primo trimestre, nel quale risulta una forte frenata della crescita dei nuovi posti fissi. Restano estremamente gravi le condizioni di Nicky Hayden, il pilota americano di Superbike ricoverato a Cesena ha riportato un gravissimo danno cerebrale, dicono i medici. Ieri era stato investito da un'auto mentre era in bicicletta nel Riminese. La morte di Chris Cornell, voce degli Audioslave e dei Soundgarden, il rocker aveva 52 anni ed è stato trovato morto in un hotel di Detroit. Per il medico legale si è trattato di suicidio. E ripartiamo in questa seconda parte di Effetto Notte, ripartiamo dagli Stati Uniti, eravamo pronti per raccontarvi le ultime sul Russiagate quando poi nel pomeriggio è arrivata la notizia che vi abbiamo raccontato qui su Radio 24 su quanto accaduto a Times Square, il cuore proprio di New York, un'auto come sapete piombata sulla folla. Ci colleghiamo con il corrispondente da New York del Sole 24 Ore, Marco Valsania. Marco. Buonasera. Buonasera Marco. Allora, leggiamo insomma dalle testimonianze, dalle agenzie, che è stato un po' uno shock, è tornata un po' la paura a New York nei primi minuti. Sì, sicuramente diciamo l'episodio, anche perché ha portato immediatamente alla memoria, alla mente, simili episodi di attentati terroristici usando veicoli lanciati appunto lanciati contro la folla in varie città anche europee, quindi diciamo la paura immediata è che si diffusa. Invece terrorismo per fortuna non è stato, anche se non si può ridimensionare la gravità di quanto accaduto, però non è terrorismo, e quindi che cos'è? E quindi diciamo la polizia ha molto rapidamente chiarito le ambiguità, dicendo che indagava fin da subito sull'ipotesi, sulla traccia di un incidente, e così è stata diciamo la versione poi data appunto l'autista dell'auto, forse sotto appunto influenza, diciamo probabilmente era ubriaco, probabilmente ubriaco. Ha perso il controllo della vettura, accelerato, e la vettura nel pieno della affollatissima Times Square è piombata così sui passanti di un marciapiede, ferendone appunto quasi una ventina, facendo un morto. Ricordiamo che appunto Times Square di questi tempi è molto molto affollata, tra aprile e maggio quotidianamente a Times Square passeggiano, si aggirano 360.000 persone al giorno, quindi chiaramente un'auto molto che perde frequentata, il controllo e piomba sul marciapiede fa una strage, certo, molto frequentata, dicevi Marco, ma anche molto controllata. È anche molto controllata perché comunque in passato è stata comunque al centro di mire di possibili attentati, ricordiamo fu disinnescato nelle vicinanze di Times Square in anni passati un potenziale ordigno esplosivo in un furgone, furgone parcheggiato, quindi diciamo è uno dei simboli della capitale finanziaria americana di New York, quindi diciamo è estremamente tenuta sotto sorveglianza. Bill De Blasio dice che invece si è trattato del gesto di un ragazzo di 26 anni del Bronx, probabilmente di origini ispaniche ma di cittadinanza americana. Se possiamo anche sentirlo Di Blasio intanto in sottofondo. Secondo quanto riferito dal sindaco, appunto, il ragazzo ha un passato di guida in stato di ebbrezza, quindi insomma è questo un po' il motivo. Adesso stiamo sentendo tra l'altro dei testimoni che, come dicevamo, alcuni hanno addirittura detto pensavamo ad un nuovo 11 settembre. Ecco, per fortuna nulla di tutto ciò. Marco. Esatto. Sembra che a questo punto la versione confermata, corroborata dalle autorità, dal sindaco stesso, al governatore dello Stato di New York, sia quella appunto di un tragico incidente, forse aggravato appunto allo stato di ebbrezza del guidatore, ma comunque appunto quantomeno ecco nella tragedia ecco un episodio che si circoscrive qui, certo. Esatto, quello che non è un attentato, non si tratta di un attentato terroristico. Approfittiamo della tua presenza ai nostri microfoni di Radio 24, perché oggi c'è da raccontare la nuova puntata che riguarda il presidente americano, con queste nuove rivelazioni da parte di Kevin McCarthy. In realtà non sono nuove perché si riferiscono al 2016. Penso che Putin paghi Trump. Allora raccontaci questa nuova puntata di oggi. Ma sì, fioccano chiaramente le rivelazioni su una Casa Bianca su cui piovono scandali, diciamo, dalla mattina alla sera. E in questo caso si tratta di una battuta che Kevin McCarthy, leader di maggioranza alla Camera Repubblicana fece nel 2016, quindi durante la campagna elettorale, quindi va un po' messa anche in quel contesto questo tipo di rivelazione. All'epoca Trump non era sicuramente particolarmente ben visto dagli ambienti così ufficiali repubblicani, che avevano cercato in tutti i modi, molti di loro, di far deragliare la sua candidatura, proprio perché preferivano candidati più dell'establishment. Trump rappresentava un po' una figura di rottura, e quindi questo risentimento nei confronti dell'avanzata di Trump probabilmente trovo espressione anche in questa battuta di McCarthy, che fu all'epoca, diciamo, nel consesso in cui fu così lanciata, sì, una cena, diciamo, riservata ai repubblicani, fu stoppata dall'allora, e tuttora leader repubblicano, speaker della Camera, Paul Ryan, dicendo: ah, queste cose teniamocele per noi, queste battute, non facciamole circolare. Assolutamente. Però ecco, rivela, se posso aggiungere questo, ecco, rivela, diciamo, la scomodità di Trump e le perplessità su Trump, che comunque esistevano da molto tempo e che adesso vengono rilanciate dalle rivelazioni, diciamo, ben più pesanti di queste ore, per cui il sospetto di distruzione della giustizia, lo spettro, per quanto ancora improbabile, di un impeachment, comunque un'agenda politica paralizzata dalle polemiche, una Casa Bianca divisa al suo stesso interno, perché oggi diciamo, tuttora la notizia del giorno è la nomina di uno special counsel, di un procuratore speciale da parte dello stesso Dipartimento della Giustizia, per fare luce sul Russia Gate, sul licenziamento in tronco di James Comey, del direttore dell'FBI, da parte di Trump. Ecco, a proposito di questo, proprio notizia che leggiamo insieme, le parole del presidente Trump di poco fa: siamo molto vicini a nominare il nuovo direttore dell'FBI, sottolineando che il senatore indipendente Joe Lieberman è in corsa per l'incarico, quindi potremmo essere vicini. Mm-hmm. Esatto, c'è questo, diciamo, per riassumere, c'è la polemica diretta di Trump contro il suo stesso Dipartimento della Giustizia. Oggi ha definito la decisione di nominare uno special prosecutor, uno special counsel, per far luce sul Russiagate come una decisione che danneggia il paese. Sì. E se l'è presa quindi con i suoi stessi, con così una parte della sua stessa amministrazione che cerca in qualche modo di ricucire la crisi. A questo punto, uno dei prossimi passi per cercare di uscire da questa spirale di crisi potrebbe essere proprio quello che accennavi tu adesso, cioè la nomina di una figura autorevole alla guida dell'FBI, dove appunto in sostituzione di James Comey. Stiamo a vedere, Joe Lieberman potrebbe essere questo, perché è un ex democratico, ma bisognerà vedere se basterà. Grazie a Marco Valsania da New York per averci aggiornato su quella che abbiamo definito la puntata di oggi su Trump. Noi invece rientriamo in Italia per tornare a parlare del crollo del ponte sulla A14. Per quel crollo, forse lo ricorderete, il 9 marzo scorso morirono marito e moglie Emidio Diomede e Antonella Viviani. Ora ci sono 41 indagati, fra cui 6 fra dirigenti e funzionari di Autostrade per l'Italia. Salutiamo Daniele Morini, che ci raccontò proprio quella vicenda. Daniele Morini, che naturalmente in questo momento è caduto. E ci fermiamo, ascoltiamo il meteo e poi torniamo insieme. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Vi presento. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Il presidente del Brasile Temer, in una conferenza stampa, ha assicurato che non rinuncerà all'incarico, smentendo le accuse relative ad un suo via libera a pagamenti di tangenti ad Eduardo Cunha. Non mi dimetterò, ha detto in una breve dichiarazione. Auto contro i pedoni a Times Square, nel piano centro di New York, un morto e una ventina di feriti, di cui alcuni gravi. Per la polizia non si tratta di un atto terroristico, ma di un incidente. E ancora rivelazioni sul presidente americano. Penso che Putin paghi Trump, diceva nel giugno 2016 in piena campagna elettorale il leader della maggioranza repubblicana alla Camera, Kevin McCarthy. Uno scherzo, una battuta di cattivo gusto che nessuno pensa sia vera, ha poi chiarito lo stesso McCarthy. Restano estremamente gravi le condizioni di Nicky Hayden, il pilota americano di Superbike, ricoverato a Cesena, ha riportato un gravissimo danno cerebrale, dicono i medici. A Norcia ha sequestrato lo stabile che ha ospitato il centro operativo comunale, il COC, dichiarato inagibile dopo la scossa di terremoto del 30 ottobre. Notificati 11 avvisi di garanzia. La struttura venne realizzata nel 2000 con i soldi del Giubileo. E segnali di rinascita dopo il sisma, a Tolentino è inaugurato il nuovo Politeama firmato dall'archistar Marcello De Lucchi. Allora, vediamo se Daniele Morini ce l'abbiamo al telefono con noi per riprendere a parlare del crollo del ponte sulla A14. Il crollo avvenuto il 9 marzo scorso, fu lo stesso Daniele Morini a raccontarcelo, in cui morirono due persone. Buonasera Daniele. Sì, buonasera, stavolta ci siamo. Stavolta ci siamo, 41 indagati, chi sono? Sì, sono davvero tanti. Non mi fare 41 nomi, però... No. No, anche perché sarebbe un elenco davvero lungo, sono 41, come dicevi, 37 sono persone fisiche e 4 sono le società, appunto. Per quel crollo di allora, lo ricordavi, il 9 marzo, ci sono anche il condirettore generale di Nuove Opere, Roberto Tomasi, e i responsabili di procedimento, gli ingegneri Scotto Lavina e Guido Santini, ma l'elenco appunto potrebbe continuare tantissimo, perché molti appunto sono società riferite comunque alla società Autostrade. Ad esempio Mauro Coletta, direttore dell'Istituto di Vigilanza sulle concessioni autostradali, e poi cominciano un po' tutti, oltre alla società Autostrade per l'Italia, le altre società, la Pavimental, la Delabec, la Spea Engineering, insomma, oltre le... Molte anche parti in causa. Ecco, ma che cosa ci dicono queste aperture di indagini? Cioè, che cosa sta emergendo? Questo ponte è crollato perché? Allora, per quanto riguarda le valutazioni tecniche, il pubblico ministero, Irene Bilotta, ha chiesto un'integrazione della consulenza tecnica per accertare le cause del crollo come atto irripetibile. L'incarico dovrebbe essere stato conferito oggi, ma ancora non ci sono, almeno questa era la notizia nei giorni scorsi, ma ancora non sono usciti. Non sono uscite informazioni nelle ultime ore su questo incarico. Molti sono gli indagati, molti sono anche reati contestati, ovviamente, perché c'è il disastro colposo, la cooperazione colposa in omicidio, le lesioni colpose ai danni dei tre operai rumeni rimasti feriti, le lesioni gravi commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro. E le parti lese sono, oltre naturalmente ai tre operai rumeni, sono chiaramente i figli delle vittime, due vittime, marito e moglie, cioè Daniele e Daniela Diomede, appunto i figli delle due persone che sono rimaste. Due ascolani. Esatto, ho l'impressione, Diomede, Daniele, che ci risentiremo per questa indagine, perché sarà davvero interessante capire come un ponte possa crollare sull'autostrada. Sappiamo che poi nei giorni successivi è successo anche altrove, nel Cuneese, sì, quindi sì, insomma... Le prime risultanze, i primi rilievi davano appunto come prima ipotesi, prima ricostruzione, quella di una rotazione del ponte su quell'apparato che era stato disposto per sollevarlo dopo i lavori appunto su quella zona, dopo i lavori di apertura della terza corsia, per cui qualcosa è andato storto in tutta l'impalcatura, in tutto l'impianto dei martinetti che lo stavano sollevando. Il viadotto è ruotato un po' su se stesso e in direzione sud in particolare è uscito proprio dalle guide, diciamo così, è piombato sull'autostrada. Daniele, ti ringrazio, naturalmente poi ci terrai aggiornate nei prossimi mesi su questa indagine, grazie mille. Sicuramente, grazie, buonasera. E noi restiamo nelle Marche, parliamo questa volta di terremoto, ma per una buona notizia finalmente, perché è stato inaugurato il nuovo Politeama di Tolentino, in provincia di Macerata, firmato dall'archistar Marcello De Lucchi. Siamo in collegamento telefonico con Massimo Zenobi, direttore artistico del Politeama. Buonasera. Buonasera a voi. Benvenuto a Radio 24 e soprattutto benvenuto per questa bella notizia finalmente. perché grazie, abbiamo parlato grazie. Ultimamente noi... sempre male di questa zona, purtroppo, per dare brutte notizie. Allora, cos'è successo oggi? Anche noi abbiamo lanciato questo hashtag, bentornato Politeama, perché bentornato ci sembrava di buon auspicio dopo i recenti eventi sismici che hanno colpito la città. Oggi apriamo un vecchio teatro che era chiuso dal 91, grazie all'impegno e grazie a un mecenate, a Franco Moschini, che ha completamente finanziato. Il signor Frau, possiamo dire. Il presidente di Poltrona Frau, chiaramente. Che ha voluto questa inaugurazione, quindi ha voluto questa ristrutturazione con l'architetto Michele De Lucchi, per dare alla città uno spazio per la cultura, per la formazione e per lo spettacolo. Chiaramente è un'opera perché che si riparte anche dalla cultura, no? In questa zona riparte... così fortemente colpita dal sisma, in cui insomma avete ancora un sacco di problemi, le strade eccetera, in realtà cercate di ripartire anche dalla cultura. Si riparte sempre, sì, si riparte soprattutto dalla cultura, perché è quella che ci fa uscire di casa e ci fa diciamo così, ben sperare per il futuro, perché insomma sarà anche un centro di aggregazione, no? Quindi anche un luogo dove ci si potrà incontrare. Assolutamente sì, un centro di aggregazione, anche perché far incontrare le varie associazioni che fanno musica, che fanno teatro, che fanno danza, significa creare dei vasi comunicanti e quindi creare delle cose nuove. E questo è di buon auspicio. Qui a Tolentino abbiamo avuto appunto il terremoto, è il centro più grande del cratere del terremoto, e 4.000 famiglie su 9.000 sono ancora fuori casa. E una apertura come questa, il progetto naturalmente era iniziato molto prima che ci fosse il terremoto, ma che si è consolidato ora, quindi l'apertura è avvenuta ora, questo è una cosa che fa molto piacere e ridà un entusiasmo. Assolutamente. Che noi serve tantissimo. Vi facciamo tantissimi auguri per il teatro e non solo, naturalmente. Grazie mille, grazie per averci dato questa bella notizia. Grazie a voi, arrivederci, buonanotte, grazie. E noi ci spostiamo più o meno in quella zona, insomma dalle Marche andiamo in Umbria, perché i carabinieri hanno sottoposto a sequestro lo stabile che a Norcia ha ospitato il centro operativo comunale, il COC, dichiarato inagibile dopo la scossa del 30 ottobre. Sono stati notificati 11 avvisi di garanzia nell'ambito di un'indagine della Procura di Spoleto che mira ad accertare eventuali responsabilità. La struttura infatti è molto recente, perché venne realizzata nel 2000 con i soldi del Giubileo. Gli avvisi hanno riguardato amministratori comunali, funzionari, tecnici dell'epoca, responsabili della costruzione del collaudo, e il reato ipotizzato è quello di crollo doloso. Siamo in collegamento con il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, che abbiamo sentito tanto da quel 30 ottobre, purtroppo ci siamo sentiti tanto, per raccontare quanto sta succedendo a Norcia. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori, e grazie perché ancora una volta dimostrate di continuare a seguire le nostre vicende e quindi di continuare a fare corretta informazione rappresentando quello che accade nel nostro territorio, che in questo momento purtroppo non vive una situazione facile. Nostro dovere lasciare i fari accesi su quanto sta accadendo a Norcia. Ci racconti di questa indagine? Lo diciamo subito, non coinvolge nessuno della sua amministrazione, perché parliamo di amministrazioni precedenti, così lei può parlare tranquillamente. Non c'è. No, non è per questo. Io non so molto, proprio perché questa indagine non coinvolge la nostra amministrazione, quindi noi non abbiamo atti, non abbiamo notifiche di atti, conosco solo ciò che mi è stato riferito da un nostro funzionario che invece all'epoca rivestiva il ruolo di RUP e che quindi ha avuto la possibilità di leggere qualcosa. Come lei diceva correttamente, il reato ipotizzato è quello di crollo, e quindi di fatto io credo che la procura voglia giustamente vederci chiaro su come questo edificio è stato realizzato. Questo credo che sia l'intendimento della procura. Di contro, perché insomma un edificio costruito nel 2000 con i soldi del Giubileo, ma quello è un altro discorso, quindi di soli di 17 anni non doveva essere così lesionato. No, ecco, da questo punto di vista però c'è da dire alcune cose. Intanto È vero che noi tenevamo all'interno di questo centro operativo comunale, di questo edificio, il centro operativo comunale, ma quello non era l'edificio indicato nel piano di protezione civile come centro operativo comunale e quindi realizzato in classe 1 dal punto di vista della normativa e quindi considerato come edificio strategico, perché l'edificio era stato costruito innanzitutto prima dell'entrata in vigore di quella di quella norma, di quel piano, esatto, e noi in città non avevamo edifici in classe 1 ricostruiti, quindi con quel tipo di attenzioni che quella norma richiede. Quindi la mattina del 24 agosto alle 5 del mattino, alle 3.36 c'era stata la scossa, questo era un edificio tra gli edifici più recenti di cui noi disponevamo, collaudato, con il percorso amministrativo completato, dotato quindi di certificati di agibilità, con tutti gli impianti perfettamente in regola, e lì abbiamo ottenuto e abbiamo installato il nostro centro operativo comunale. È stato ospitato anche il centro operativo regionale, quindi avete ritenuto che quello fosse l'edificio comunque più sicuro, esatto, perché uno dei più recenti, esatto, tant'è che però sapevate edificio... che non era stato costruito, esatto, con le norme, esatto, più, esatto, più recenti, più aggiornate, tant'è che aveva resistito perfettamente al sisma del 24 agosto senza riportare nemmeno un graffio, e aveva resistito anche al sisma del 26 ottobre, perché noi non solo lo abbiamo verificato il 24 agosto, ma quell'edificio è stato poi successivamente verificato dai vigili del fuoco che erano all'interno della nostra struttura, insieme a noi, quindi direttamente dalla struttura dei vigili del fuoco, anche la stessa sera del 26 ottobre, quando c'è stata la scossa che poi ha in qualche modo preannunciato quella terribile. Quella del 30, quella del 30, in base subito dopo la quale però invece questo edificio ha mostrato insomma delle lesioni. Avuto, però ecco, vorrei chiarire anche questo: un pilastro è collassato, e quindi questo credo che sia la ragione per la quale la procura giustamente si sia mossa e sia intervenuta. Però voglio anche spiegare a tutti i radioascoltatori che un edificio antisismico non è tale perché in caso di terremoto non subisce danni, ma è tale perché in caso di terremoto non crolla sulla testa delle persone. Questo edificio non è crollato. Io dormivo lì, mi ha salvato la vita. Cioè l'edificio è in piedi, ancora oggi è in piedi, non c'è nessun crollo, c'è un pilastro collassato, certo, rotto, spaccato, che però è rimasto in piedi. Certamente, ecco, l'abbiamo imparata in questi mesi purtroppo, ecco, questa faccenda, insomma, che gli edifici, ecco, si lesionano eccetera, però non collassano quelli costruiti, esatto, comunque con qualche criterio. Alemano, la salutiamo, esatto, la ringraziamo moltissimo anche questa sera per averci raccontato un pezzo di quello che sta succedendo a Norcia, che tra l'altro sta rinascendo, non abbiamo il tempo per parlarne, ma so che state riaprendo anche la scuola media, insomma, quindi anche un'altra buona, la prossima settimana, una bella notizia. Bene, bene, bene, grazie di cuore. In bocca ancora al lupo e ci risentiremo davvero molto presto. Noi ci fermiamo per qualche istante. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda, è in mani sicure. Gondrand.it vi presenta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Auto contro i pedoni a Times Square nel pieno centro di New York, un morto e una ventina di feriti, di cui alcuni gravi. Per la polizia non si tratterebbe di un atto terroristico ma di un incidente. L'uomo era un ex membro delle forze armate americane. E poi ancora rivelazioni sul presidente americano. Penso che Putin paghi Trump, diceva nel giugno 2016 in piena campagna elettorale il leader della maggioranza repubblicana alla Camera, Kevin McCarthy, secondo quanto ha riportato il Washington Post. Ma lo stesso McCarthy poi ha chiarito: uno scherzo, una battuta di cattivo gusto che nessuno pensa sia vera. Firmata oggi in Prefettura Milano il protocollo per la distribuzione di migranti nei comuni milanesi, un modello, l'ha definito il ministro Minniti, per l'Italia e per l'Europa. Crollano le assunzioni a tempo indeterminato e aumentano i nuovi contratti a termine. L'INPS fotografa l'andamento del mercato del lavoro nel primo trimestre, nel quale risulta una forte frenata della crescita dei nuovi posti fissi. E restano purtroppo estremamente gravi le condizioni di Nicky Hayden, il pilota americano di Superbike ricoverato a Cesena, ha riportato un gravissimo danno cerebrale, dicono i medici. Ieri era stato investito da un'auto mentre era in bicicletta nel Riminese. E mi ha raggiunto Marta Cagnola. Ciao Marta. Buonasera Piera, buonasera agli ascoltatori. Non ti vorrei avere qua stasera perché non sono belle le notizie che diamo. Insomma, è stata una giornata un po' triste per quanto riguarda gli spettacoli. Gli spettacoli, partiamo dalla musica e magari la sentiamo anche un po' di musica, così capiamo subito di chi stiamo parlando. Black Hole Sun, won't you come? Marta, questa era Black Hole Sun. Questa era Black Hole Sun, uno dei più grandi successi dei Soundgarden. Questa mattina la notizia sconcertante, sconvolgente della morte di Chris Cornell. Aveva appena 52 anni, una morte improvvisa. Nel pomeriggio ho cominciato a sentire la notizia della polizia che stava indagando per suicidio e purtroppo così è stato. Effettivamente Chris Cornell pare si sia purtroppo impiccato al termine del concerto che aveva tenuto in serata a Detroit. Insomma, continua la maledizione del grunge, perché lui è stato uno dei principali protagonisti della scena di Seattle. Lui peraltro era proprio di Seattle della fine degli anni 80, inizio degli anni 90, un nome per tutti, Kurt Cobain. Insomma, tante purtroppo fini premature, fini tragiche, alle quali si è aggiunta nelle ultime ore e sulle quali c'è poco da dire, perché sì, insomma, sono, come dire, questioni molto personali e molto private, delicatissime. Invece veniamo all'Italia, perché anche qua purtroppo dobbiamo parlare di una persona che oggi ci ha lasciato. Beh, devo dire con grande tenerezza ne parliamo, perché aveva 84 anni, era anziano e da tempo lavorava molto poco, si vedeva molto poco in TV, ma volevamo molto bene a Daniele Piombi, un presentatore di grande garbo, signore, di grande classe, un signorone. Sì, ce lo ricordiamo un po' come una TV di un tempo, poi quei ricordi legati alle trasmissioni un po' estive, come il disco per l'estate, come il Cantagiro, come il premio regia televisiva che lui aveva inventato nel 1961, curato personalmente per tanti anni e condotto fino a una quindicina d'anni fa, fino al 2000. Grande amarezza per lui il fatto che per l'ultimo anno non era stato confermato nei palinsesti, insomma era scomparsa questa sua creatura, il premio regia televisiva che un tempo si chiamava anche Oscar TV. Marta, tu potresti parlare di TV per altre 6 ore, ma ti devo interrompere perché passiamo ad un'altra arte, quella del cinema. Siamo collegati, come facciamo spesso in questi giorni, con la nostra Cristina Battocletti, inviata del Sole 24 Ore sulla Croisette. Buonasera Cristina. Buonasera. Che bello, buonasera, desideravo buonasera, dirlo buonasera. Da un sacco di tempo. Finalmente detto l'ho detto. Allora, oggi di che cosa ci parli? Primo film italiano. Primo film italiano che è Sicilian Ghost Story, che è una favola nera che è ispirata alla vicenda di Giuseppe Di Matteo, che era il figlio Santino Di Matteo, un pentito di mafia, che purtroppo è stato sequestrato sperando di far tacere il padre e poi l'hanno sciolto nell'acido. È una favola, diciamo, si capisce perfettamente che è ispirata a lui perché c'è la corsa di cavalli, ci sono le sue foto. Ha aperto la Semaine de la Critique, che è una sezione collaterale rispetto alla competizione, ed è stato un grande, grandissimo onore. I due registi sono Grassadoni e Piazza e avevano vinto con Salvo un importantissimo premio qualche anno fa, quindi a Cannes sono molto amati. Bene. Cristina, noi ti dobbiamo salutare perché oggi abbiamo un sacco di belle cose da raccontare, quindi scusami se siamo stati un po' brevi, ma ti lasciamo tra l'altro ad un film, quindi sarai anche contenta, sì. Facciamo veloci. Grazie Cristina, ci sentiamo domani e noi ci trasferiamo immediatamente a Torino, perché oggi si è aperto il Salone del Libro, un'edizione, quella di quest'anno, che si apre con non poche preoccupazioni per gli organizzatori, perché la manifestazione che esordito quest'anno a Milano, Tempo di Libri, rischia di togliere pubblico a Torino. Ricorderete tutto il dibattito, le polemiche che ci sono state per la nascita di questa rassegna milanese. Allora, la nostra cacciatrice di libri, Alessandra Tedesco, ha intervistato il direttore artistico del Salone del Libro di Torino, Nicola Lagioia, dopo la prima giornata. Sentiamo com'è andata. Ma io stanotte non ho dormito, una settimana che non dormo in realtà, però poi stamattina quando ho visto queste file lunghissime, anche più lunghe del normale per essere ancora giovedì, e poi ho visto le sale riempirsi all'inverosimile con la gente che è rimasta fuori, e poi ho sentito gli editori che dicevano che avevano incassato questo primo giorno il 20, il 30, il 40% più del primo giorno dell'anno scorso, insomma ho cominciato non a rilassarmi perché sono comunque 5 lunghi giorni, ma sono stato contento, perché poi che cosa vogliono dire questi numeri? Perché i numeri di per sé potrebbero sembrare una cosa fredda, vuol dire che il patto con i lettori, un patto forte, un patto trentennale, una storia d'amore trentennale fra i lettori e il Salone del Libro si è rinnovato più forte che mai anche quest'anno. Ecco, al Salone del Libro di Torino però, lo diciamo, mancano le grandi case editrici. Questo può modificare il tipo di pubblico che viene al Salone? Ma guarda, a vedere la gente che c'è oggi, uno se fosse, come dire, impertinente dovrebbe dire che la mancanza delle case editrici ha portato più pubblico ancora al Salone, ma in realtà ovviamente non è questo il nostro auspicio che l'anno prossimo tornino, è per il bene del Salone, ma soprattutto per il loro bene, perché insomma, tornando, che poi fondamentalmente si tratta di Mondadori e di qualche casa editrice del gruppo James, tornando insomma ne beneficeranno loro per primi, tant'è vero che i loro autori poi ce li hanno mandati. E quindi insomma è andata bene questa prima giornata del Salone del Libro di Torino, meno male, poi vi racconteremo anche nei prossimi giorni come starà andando. Si chiude qui Effetto Notte condotto da Maria Piera Ceci, domani torna Roberta Giordano, quindi state tranquilli. Un saluto e ci risentiamo fra poco per i titoli.